Il punto di Stefano Folli. Ormai è tutto un fiorire sui giornali e nelle discussioni pubbliche di tagli alla spesa pubblica. L'argomento è diventato prioritario e si è capito che, a differenza dal passato, il governo è davvero deciso ad agire. Ma per adesso le novità si fermano qui, all'imprevista popolarità raggiunta dal commissario Cottarelli. Per il resto tutto deve essere ancora stabilito nel concreto, il che significa che il governo Renzi deve mettere in conto gli aspetti dolorosi e persino drammatici di tagli che non dovranno essere solo simbolici. Quello che il Premier finora non ha fatto, e si capisce visto che siamo quasi in campagna elettorale, è spiegare agli italiani quanto potrà essere amara la medicina. Sembra passare l'idea che le misure saranno più o meno indolori, riguarderanno sprechi remoti che non hanno a che fare con la vita delle persone. Invece non sarà così se il progetto è serio. L'esperienza di altri paesi, a cominciare dall'Inghilterra e dalla Thatcher, lo insegna. E per centrare l'obiettivo occorre una fortissima volontà politica.